L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Oggi abbiamo un appuntamento molto diverso da quelli ai quali siete abituati voi ascoltatori di questo programma. Ospiti di questo programma infatti oggi sono i Manzella Quartet, ovvero un gruppo molto speciale che è venuto a trovarci negli studi di Radio 24 anche per esibirsi, e questo lo sentirete tra poco. Ma iniziamo con il presentare questo gruppo. Con noi ci sono Giovanni Sessa, padre patriarca del Manzella Quartet, al quale non solo do il buon pomeriggio, ma do anche il compito di presentare il gruppo. Buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Giovanni, in effetti per il gruppo sono Gio Ganga, il fondatore, diciamo, di questo gruppo insieme ad Alessandro. Alessandro Castelli. Alessandro Castelli. Dunque, questo gruppo è formato quindi da me, da Alessandro Castelli, da Simone Gallarini e da Davide Pollice. In effetti il gruppo non è solo così. Come dice il nome stesso, è Manzella Quartet, formazione instabile, perché sono instabili i personaggi, sono instabili gli strumenti e sono instabili ed è instabile la composizione del gruppo. Cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque si può unire al gruppo e suonare con noi con i nostri ecostrumenti, e a seconda delle situazioni e a seconda degli impegni di ognuno anche il gruppo può cambiare. Per cui puoi per esempio venire tu a suonare lo stendofono. Andando un po' troppo avanti però, perché hai già parlato di ecostrumenti e chi ci ascolta non sa di che si tratta. Che cos'è un ecostrumento? Cioè, che cosa suonate voi? Lo sentiamo tra poco, ma vi posso assicurare che il risultato finale è, non dico tradizionale, ma quasi. Il problema è che lo strumento con il quale viene ottenuto questo risultato è molto particolare. Sì, dunque i nostri strumenti sono degli ecostrumenti, cioè sono tutto quello che voi potete trovare nei cassetti di casa, nel garage e in soffitta. Per cui tutto quello che teoricamente voi avreste buttato via e che invece noi riportiamo a nuova vita. Non buttiamo via niente, per una ragione semplice: potrebbe suonare. Potrebbe suonare e suona piuttosto bene. Sentiamo Tanti anni fa, una composizione di Gio Ganga, che è una denuncia contro abusivismo e degrado. Lo sentirete appunto nel testo di questa canzone. Qui a Radio 24, live i Manzella Quartet con tutti i loro ecostrumenti, di cui continuiamo a parlare tra poco. Mi son sentito già più, ma il mar che si vedeva da lassù non c'è già più. Facciamo parlare altri due colleghi, tra virgolette. Davide, washboard, così è esatto. Scritto, così è scritto nella presentazione. Sì. In realtà washboard è una parola molto bella, ma che nasconde esatto. Uno strumento assai meno divertente per le massaie. Diciamo che è il modo raffinato per descrivere un po' questo strumento, che ha comunque origine dalle regioni americane, insomma, dalla tradizione americana. Fondamentalmente cos'è? Nasce per lavare i panni, quindi si usava per lavare i panni sul fiume, quindi nasce di legno con una lamiera ondulata metallica. Che tu suoni con le fruste. Sì, con il frullino per sbattere le uova, insomma. Diciamo che mi sono ritrovato con questo strumento, il frullino, ho detto proviamo, e effettivamente veniva fuori qualcosa di gradevole, che comunque serve un po' per amalgamare le sonorità del gruppo, quindi ha un suono molto ripetitivo e ha anche una funzione ritmica. A proposito di ritmo, esatto. Di fianco a te siede Simone, padelle, bidoni, campanacci, suona un po' tutto quello che può suonare in pratica. Sì, io sono il più rumorista del gruppo e ho preso un po' tutto quello che mi è capitato sotto mano, tra bidoni dell'immondizia, pentole, coperchi, campanacci, e ho iniziato a picchiarli, un po' all'inizio con i cucchiai di legno che avevo in cucina, no? Quando ero piccolo, poi dopo insomma mi sono evoluto un po', ho iniziato anche a suonare gli strumenti veri, diciamo, e mi sono costruito questa batteria con questi strumenti molto particolari. Allora è il momento del secondo brano, My Sweet Lorraine, un'altra composizione di Gio Ganga dedicata appunto a una certa sweet, dolce Lorraine. My Sweet Lorraine, My Sweet Lorraine, My Sweet Lorraine, My Sweet Lorraine. Alessandro Castelli, tu sei la voce di questo gruppo, ma non solo, suoni il kazoo, suoni anche la chitarra, che è lo strumento più tradizionale che c'è in questo complesso. Mi dicevi, sarà ancora per poco però, perché? Perché sto nelle mie ricerche, sto un po' sondando il terreno su strumenti alternativi alla chitarra e è venuto fuori un pseudo liutaio del garage del vicino, no? Che ha creato una chitarra con un pentolone e ha applicato un manico per chitarra con corde. Adesso devo ancora provarlo perché prima di venire qua mi premeva testarlo. E mi dicono che suoni bene, adesso poi ti farò sapere. Bene, facci sapere, poi ci fate sapere la prossima volta anche come suona lo stendofono, che oggi non siamo riusciti a sentire. Gioganga, in arte Giovanni Sessa, come scrivi sempre. Esatto. Gioganga, invece tu suoni uno strumento che a vederlo non è neanche uno strumento, insomma, no, è un bastone riloga, delle tende. È una riloga delle tende, il bidone dell'olio. Fa la cassa armonica e la corda che percuoto è la corda per stendere i panni. Qui nulla di tutto in casa e l'effetto finale è un pseudo contrabbasso. Tutto questo è molto bello, è musicale, suona bene, ma c'è anche un progetto di sostenibilità che voi portate in giro per l'Italia. Avete molti appuntamenti. Diciamo che spirito vi ha animato nell'intraprendere questa carriera che è parallela alle vostre normali, alle vostre vite, alle vostre carriere lavorative normali? Beh, diciamo che ormai sta diventando un lavoro, per cui doppio lavoro. Diciamo una cosa, siamo la parte gioiosa dell'ecosostenibilità. È riflesso da quello che facciamo comunque nella vita quotidiana, nel senso che anche nella vita quotidiana stiamo attenti a quello che è il nostro vivere senza sprecare le cose, senza... Tra l'altro, a proposito di non sprecare, di riutilizzare, di fare attenzione, oggi qui avete portato il vostro CD di prossima uscita, al quale, Alessandro, tu mi dicevi state cercando di dare un'attenzione anche proprio nella sua veste... Sì, in realtà per essere coerenti con i nostri intenti la confezione non poteva essere classica, di plastica, uno slim case. Abbiamo quindi creato questa confezione in carta riciclata, quindi rispecchia un po' la nostra filosofia. Sì, certo. Nelle scuole che cosa vi chiedono? Cosa vi capita? Vi si è richiesto più spesso? Ecco. A me è capitata una cosa, non in una scuola, però eravamo lì da Diana, no? Si avvicina un bambino. Cioè, che mi guardava, no? Avevo questi specie di bonghi costruiti con l'anima delle carta da plotter e lo scotch, no? E mi guardava in continuazione mentre lo suonavo. Allora la madre fa avvicinare il bambino e dice: guarda, provali perché il bambino li prova. E la madre fa: hai visto, mi hai fatto spendere un sacco di soldi per la batteria. invece si guarda, può anche risparmiare. E il bambino è rimasto così perché dice: cavoli, suona il cartone, io ho appena preso la batteria e non... A proposito di riloghe delle tende e percussioni, è il momento di sentirci un altro classico dei Manzella Quartet, ma è un classico mondiale, Moon Dance di Van Morrison. With your offspring the place of to know, anytime I judge you, you just tremble inside, and all that song light seems to shine in your blood. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Dunque siete reduci dai Perugia Green Days, domani suonerete a Sant'Elpidio a Mare, quindi nelle Marche, provincia di Fermo. Se avrete occasione potrete andare anche voi a sentirli al May Day 2011. Quest'anno il tema portante di questa manifestazione è il riuso e quindi ovviamente ci saranno anche Manzella Quartet. In futuro che altri appuntamenti ci sono? Al Mezzago Street Festival il 28 di maggio. Sempre per quanto riguarda l'ecologia, saremo anche a una festa a Grezzago il 17 di giugno. Quindi ci sono tante occasioni per vedervi. Io vi ringrazio per essere venuti qua, per esservi scapicollati. Grazie attraverso la città di Milano per arrivare in tempo. Bocca al lupo per tutto. Grazie per il vostro esempio. Grazie per essere venuti qui. Grazie anche a te, grazie a tutti. Su internet www.manzellaquartet.it ci ritroviamo dopo la viabilità. You know me, got you big good looking, cause it's so hard to see. Come together right now over me. L'altro pianeta. Dopo la viabilità, l'altro pianeta prosegue, questa volta però in modo inconsueto. D'altro canto questa è tutta una puntata un po' inconsueta. Dicevo, proseguiamo con due interviste che però sono comunque sempre legate al mondo della musica e della sostenibilità e del recupero. Neanche a farla apposta, infatti, proprio mentre ci preparavamo alla puntata con i Manzella Quartet, ci veniva segnalata questa iniziativa. La Cesare Bonetti S.P.A., azienda di Garbagnate milanese, attiva nel settore delle valvole e degli indicatori di livello, ha deciso di aderire alla 17ª edizione di Bimbi in Ufficio, realizzando, e questo è il punto interessante, un laboratorio di costruzione di strumenti musicali con i materiali di recupero disponibili in azienda. Bimbi in Ufficio si è tenuta il 20 maggio ed è con noi per parlarne Elena Dalmasso, responsabile di Cesare Bonetti. Buon pomeriggio. Allora, com'è nata l'idea di celebrare Bimbi in Ufficio in questo modo nella vostra azienda? L'idea è nata perché ci siamo ritrovati ad avere moltissimi materiali di scarto che non erano utilizzati e nell'ottica di accogliere i bambini dei dipendenti in ufficio nell'azienda in generale per far conoscere loro la realtà lavorativa dei loro genitori, ci è sembrata una buona idea quella di utilizzare gli strumenti di scarto e di chiamare una compagnia di teatro ragazzi che si occupa proprio di laboratori con i bambini per riutilizzare in maniera creativa gli scarti aziendali, e loro hanno proposto di realizzare con i ragazzi degli strumenti musicali e di fare in seguito una parata per gli spazi dell'azienda. Negli anni passati cosa avevate realizzato per Bimbi in Ufficio, se avevate partecipato già? No, è il primo anno di adesione. E quindi direttamente partiti con la musica? Sì, direttamente partiti con la musica, esatto. E diciamo che sono due binari, cioè da una parte c'è l'idea di far giocare i bambini in qualche maniera con la musica e dall'altra c'è quella di abituarli a un discorso di ecologia e di riciclo. Che tipo di materiali sono stati presi da questa compagnia che si occupa dell'animazione? Che cosa ha scelto? La compagnia aveva preso dei tubi, aveva preso dei vecchi marchingegni, ingranaggi, qualche corpo di valvola che poi non era stato lavorato e non era stato mandato in produzione, e sono stati costruiti degli strumenti curiosi, a maggior come dire, soprattutto percussioni particolarmente rumorose, visto il materiale che di solito è materiale di tipo ferroso. Certo, in un'azienda che produce valvole, appunto, ci può essere questo, no? Materiali ferrosi. Esatto, no, ma è stato sicuramente un'esperienza divertente per tutti poi alla fine. Tappi per le orecchie fornite anche per i dipendenti quel esatto, giorno. Tappi per le orecchie e occhialini per i bambini, anche perché poi appunto questa parata con gli strumenti musicali è passata attraverso lo spazio anche dell'officina, quindi proprio per far vedere loro sia la parte degli uffici che la parte dove proprio si producono invece le valvole, con degli stop in alcuni punti, non so, dove fanno le saldature e così. Abbiamo fatto questa parata musicale anche in spazi che tendenzialmente vengono ritenuti, come dire, non di facile accesso, perché non sono particolarmente semplici da gestire a livello di sicurezza, diciamo. Per chiudere, partecipare a Bimbi in Ufficio, voi avete scelto le attività che possono piacere ai bambini, ma avete scelto l'aspetto sostenibilità. È parte di un desiderio aziendale? Magari durante l'anno fate percorsi anche per i dipendenti su questi settori, oppure è stato un'occasione perché si è presentata questa compagnia, però è limitata questo ambito? Cesare Bonetti ha sicuramente, come dire, porta avanti da anni e porterà ancora avanti negli anni un discorso sulla sostenibilità, perché oggi non si può più prescindere dal rispetto dell'ambiente e da delle considerazioni molto profonde su quello che vuol dire avere a che fare con l'ambiente, avere a che fare con dei materiali che vanno riutilizzati in generale, dalla carta delle fotocopie alle bottiglie di plastica ai materiali industriali che si usano per le produzioni come le nostre, insomma. Elena Dalmasso, responsabile comunicazione di Cesare Bonetti S.P.A., grazie per essere stata con noi, a risentirci. Grazie a lei. E andiamo avanti con la seconda intervista che vi avevamo annunciato, seconda intervista che deriva dal fatto che in questi giorni siamo stati fortunati. In tema di musica e sostenibilità è stata pubblicata anche una ricerca dell'ISPO di Renato Mannheimer, secondo la quale il 70% degli italiani si dichiara molto sensibile alle tematiche ambientali e, in particolare, del 70% di italiani interessati alle tematiche ambientali, ce n'è una grandissima fetta di appassionati di musica. Insomma, gli appassionati di musica sono più attenti alla sostenibilità e all'ambiente. Renato Mannheimer è stato intervistato da Adriana Fracchia. Gli italiani anzitutto gli piace tantissimo la musica, a tanti, a tutte le categorie, specialmente ai giovani, tra i giovani poi si raggiunge il 100% di amanti della musica. Al tempo stesso tutti sono molto sensibili all'ambiente e la maggior parte degli intervistati, non tutti, fa qualche cosa per l'ambiente. Poi c'è una consistente minoranza che non fa tutto per l'ambiente, cioè dice di essere sensibile all'ambiente ma non agisce coerentemente, ma la maggioranza relativa agisce coerentemente e fa qualche cosa per l'ambiente. Tra costoro ci sono di più gli appassionati di musica, cioè sono gli appassionati di musica sono al tempo stesso anche più sensibili e attivi nella difesa ambientale. In particolare quelli che amano la musica classica più di quelli che amano la musica rock. Sì, un pochettino, c'è una lieve accentuazione tra quelli amano la musica classica, ma in generale bisogna dire la cosa, è un comportamento diffuso. Ritengono che bisogna fare di tutto quando si fa un concerto per cercare di diminuire l'impatto ambientale. Ed ora spazio ad Articolo 9, la rubrica che dedichiamo tutte le settimane a un bene italiano da salvare. Articolo 9, come l'articolo 9 della Costituzione italiana che dice, lo ripetiamo ogni volta, la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Marco Carminati. Oggi ci occupiamo di ambiente tout court e abbiamo con noi in collegamento la dottoressa Isabella Pratesi, che è il direttore del programma di conservazione del WWF Italia. Buongiorno dottoressa Pratesi. Buongiorno a tutti. Ecco, con lei entriamo nel magico mondo del WWF, partendo diciamo da un appuntamento importante. Quest'anno è l'anno internazionale delle foreste. Cosa significa per voi del WWF questo importante appuntamento? Per noi vuol dire concentrare ancora di più i nostri sforzi per salvare le foreste in Italia e nel mondo. Purtroppo non tutti sanno che noi ogni anno per la deforestazione, per gli incendi, per il cemento perdiamo ben 13 milioni di foreste, di ettari di foreste in tutto il pianeta. Vuol dire che in qualche modo stiamo rovinando, stiamo uccidendo le radici che ci tengono ancorati alla vita di questo meraviglioso pianeta. E perché c'è questo accanimento sulle foreste? Perché c'è una grande competizione per lo spazio, purtroppo continuamente viene degradato il territorio, vengono costruite strade, vengono costruite nuove case e vengono tagliate le foreste che sono la nostra sorgente di vita, perché le foreste producono l'ossigeno, producono l'acqua, accolgono quella meravigliosa biodiversità a cui siamo tutti tanto legati. Certo, e venendo diciamo così al caso Italia, noi come ci stiamo muovendo da questo punto di vista nel nostro paese? Purtroppo anche in Italia le foreste sono minacciatissime, perdiamo ogni anno 50.000 ettari di superficie boscosa distrutte soprattutto dagli incendi ma anche dalla trasformazione del suolo, quindi il WWF si vuole proprio impegnare affinché le foreste vengano protette innanzitutto in Italia per il bene nostro di questa generazione ma anche delle generazioni che verranno dopo di noi. Insomma, i dati che lei ci fornisce sono abbastanza allarmanti, quindi voi del WWF vi dovete armare fisicamente per proteggere angoli di territorio. So che avete in essere una campagna per salvare proprio tre preziosi boschi italiani. Ci vuole parlare di questo argomento? Assolutamente sì. Per noi abbiamo tre sogni nel cassetto, che è salvare i tre boschi più importanti forse d'Italia. Sono tre tasselli della nostra ricchezza di natura che accolgono cervi, caprioli, rapaci e si trovano dal nord al sud dell'Italia. Il primo è in Valpredina, in Lombardia, ed è proprio un cuore verde vicino ad un'oasi del WWF dove purtroppo ancora c'è bracconaggio, ancora c'è una minaccia di incendi e di distruzione di una foresta che dovrebbe essere veramente protetta perché è una foresta meravigliosa. Poi scendendo al centro Italia abbiamo il sogno di conservare la foresta, il bosco dell'Arrone, nel Lazio, alle foci dell'Arrone, che è un piccolo tassello di foresta mediterranea che è miracolosamente fuggito alla distruzione del litorale laziale, quindi è un luogo importantissimo non soltanto per la fauna che migra e che quindi ha bisogno di fermarsi in questi boschi per riposarsi, ma anche perché accoglie attraverso acquitrini ancora una fauna importantissima e molto delicata. Per poi finire nel bosco di Marzagaglia in Puglia, in provincia di Bari, anche questo è un bosco bellissimo con querce secolari, ulivi secolari, che miracolosamente sfuggono sfuggito agli incendi e noi vogliamo in qualche modo acquisire per proteggerlo, per difenderlo, non soltanto questi meravigliosi alberi, questo bellissimo paesaggio, ma soprattutto anche gli animali che vivono in quest'area. Ad esempio vive il piccolissimo mustiolo, che è uno dei, è il mammifero più piccolo del mondo, nessuno lo sa, in questo bosco ancora sopravvive ed è un elemento fondamentale della nostra biodiversità. Ecco, e cosa può fare un cittadino per darvi una mano nel salvare questi tre paradisi che lei ci ha descritto? Può in tutti i modi appoggiare il nostro lavoro, a starci vicino, ad aiutarci, ma anche in un modo molto concreto attraverso un SMS solidale ad un numero che è importante segnarsi, che è il 45507. Con un solo SMS si danno 2 euro che aiutano cervi, lupi, orsi e aiutano questi meravigliosi boschi ad essere protetti e a non finire distrutti da incendi, da cemento, da cave, da autostrade, come purtroppo sembrerebbero destinati a finire. Va bene, allora armatevi di telefono 45507, così aiutiamo il WWF a salvare questo piccolo angolo, anzi questi tre piccoli angoli di paradiso. Però domani è un importante appuntamento, domani domenica 22 maggio per il WWF. Cosa ci state preparando? Prepariamo una grande festa, sia per quelli che ci hanno aiutato mandandoci un SMS, ma anche per le persone che vogliono soltanto starci vicino e godere di questa bellissima natura delle nostre osi. Tutte le osi, le 100 osi del WWF, sono aperte gratuitamente al pubblico, così speriamo di trasmettere il nostro entusiasmo e soprattutto di far vedere che cosa sta facendo concretamente il WWF per la natura, per gli animali, per tutto quello che importa in questo pianeta, ovvero questa bellissima biodiversità a cui siamo così fondamentali. Legati. Ringrazio molto Isabella Pratesi per questo suo intervento. Grazie dottoressa. Grazie a tutti voi. E a tutti gli ascoltatori una buona giornata. E con la rubrica articolo 9 è tutto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Vi ricordo, per scriverci, l'altropianeta@radio24.it, oppure potete scrivere direttamente a me, laura.bettini@radio24.it.